A tempo di sport. E mentre anch'io saluto Massimo Di Scienza, vi do al volo i finali in Serie A. Il Chievo vince 2-1 a Bari, Bologna-Genoa finisce 1-1, l'Inter batte 1-0 a Lecce con gol di Pazzini e si arrampica a meno 2 dal Milan, la Juventus torna a vincere 2-1 sul Brescia, la Sampdoria invece perde ancora, quarta sconfitta consecutiva in casa, 1-0 con il Parma, l'Udinese non si ferma più, 2-0 al Catania. Ne parleremo in A Tempo di Sport subito dopo il giornale radio. A Tempo di Sport. Eccoci di nuovo e di nuovo buonasera a tutti. Roberto Scaltritti in regia, Luca Rinaldi in redazione. Dunque l'Inter a meno 2 dal Milan, e se qualcuno poteva ancora pensare fino a ieri sera alle 11 più o meno che i rossoneri fossero favoriti per lo scudetto, non so se a questo punto ha cambiato idea. Inter con il minimo sforzo, con un gol di Pazzini al settimo della ripresa. Pazzini che si è portato avanti la palla con il petto, quelli del Lecce dicevano con il braccio, a me sinceramente non è sembrato, anche dopo diversi replay, però sono qui pronto a vederne di altri da altre angolazioni, perché poi si comincerà a dire Ibra sì, lui no, sapete, no, le solite cose. Fatto sta che l'Inter vince con questo gol inventato da Pazzini, fatto sta che l'Inter mette la freccia, si presenterà, viaggerà verso il derby di sabato 2 aprile 20:45 con la freccia del sorpasso innestata. Fatto sta che a quel derby non ci sarà Ibrahimovic, ma nemmeno Lucio, perché al secondo della ripresa, lui che era diffidato, ha fatto un fallo di mani a centrocampo da fucilazione. No, ma ovviamente sto scherzando, però un fallo di mano che neanche in primavera capita di vedere, di istinto, quanto netto e quanto inutile. Salterà il derby dunque il difensore centrale dell'Inter. Questa è una prima notizia. È stata poi la domenica di due grandi vecchi di cui soprattutto in momenti come questo, difficili e un po' incarogniti, Juventus e Roma non possono fare a meno. Il primo grande vecchio all'ora di pranzo, Francesco Totti, ha per due volte raggiunto la Fiorentina in questo 2-2, viola in vantaggio con Mutu, poi raggiunti da Totti su rigore, fallo su Risa che c'era, ripresa, segna Gamberini e poi di nuovo Totti con un destro piazzato dal limite dell'area, gol numero 200 e 201 per lui in Serie A. L'altro grande vecchio è Alessandro Del Piero che ha dato alla Juventus, che ha restituito alla Juventus una vittoria dopo quattro turni d'inferno, tre sconfitte e un pareggio sabato scorso a Cesena. Oggi solita Juventus più o meno molto fragile, in vantaggio con Krasic, bellissimo il gol al 23esimo con un destro al volo da appena dentro l'area. Tutta la fragilità bianconera per l'appunto nel pareggio, meritato peraltro, del Brescia, 42esimo cross di Vass e Eder che scappa al solito stralunato Chiellini, anticipa Buffoni in uscita quantomeno azzardata e sbagliata come tempi, e segna dunque il gol dell'1-1 Eder di testa, lui che non è un notorio colpitore. Al 23esimo della ripresa Del Piero, come era già successo con il Bari qualche tempo fa, in una delle rare vittorie juventine di questo 2011, mette d'accordo tutti, parte da centrocampo, riesce a tenere la palla in mezzo a tre difensori e piazza un bellissimo sinistro dal limite dell'area per la vittoria bianconera. Vince anche l'Udinese, tra poco ve la racconto, ma prima vi faccio sentire con Sky Gigi De Canio, che ha già perso con l'Inter. Sì, meno del previsto, ne abbiamo creati comunque. Siamo stati sempre in partita e legittimamente potevamo anche pareggiare. Non è andata così, pazienza. Voleva fare un commento sul controllo di Pazzini nell'occasione del gol dell'Inter? No, non l'ho visto bene dal campo, nemmeno ora nelle immagini, ma... non mi sento di dire nulla, perché sono situazioni, sono momenti di immediata valutazione, dipende anche dalla posizione dell'arbitro, si può sbagliare o no, non so. Siamo stati, se l'ha preso di mano e l'arbitro non l'ha visto, siamo stati sfortunati, pazienza. Per quanto riguarda la classifica, questo è il momento in cui bisogna rimanere tranquilli, concentrati, o bisogna iniziare un pochino a preoccuparsi, perché questa è una squadra che sta mettendo insieme in quest'ultimo periodo una serie di risultati negativi in una situazione di classifica che sta diventando delicata? Ma anche nel girone d'andata avevamo un momento di difficoltà, ma questo è il nostro campionato, questo, quando siamo partiti sapevamo di dover affrontare un campionato con queste difficoltà. Siamo attaccati al treno delle contendenti alla salvezza, abbiamo vitalità, abbiamo voglia di giocare, giochiamo e sono sicuro che alla fine troveremo i punti per venirne fuori. Vedremo, questo è De Canio, allenatore del Lecce. Contatti 800 24 0024, numero verde, messaggi 349 238 6666. Non so, spero che Alberto da Pescara abbia sbagliato, ma vergognati, per quanto tempo dovremmo sopportarti, fai schifo. Non saprei dire perché, se ha la bontà di spiegarmi, magari possiamo fare due chiacchiere, eventualmente, con calma. Vado avanti invece con i tabellini. L'Udinese, come detto, non ha nessuna intenzione di fermarsi qui. Batte 2-0 il Catania, in una partita non brillantissima, mi è sembrato, non all'altezza delle ultime uscite, però da grande squadra, perché così fanno le grandi squadre. 22esimo gol meraviglioso di Inler, sinistro al volo dai 20 metri su una palla respinta corta da Spolli, se non ricordo male, da difensore centrale del Catania, e vantaggio per i bianconeri, che poi raddoppiano alla 25esima della ripresa con il solito di Natale su rigore. Invece c'è la Sampdoria che rotola sempre più in basso in termini di classifica, quarta sconfitta casalinga consecutiva e non accadeva da grosso modo dai primi anni del secolo scorso, se non ricordo male dal 35, ma queste sono solo statistiche. La gravità del momento è segnata da un'altra partita che era fondamentale in termini di salvezza, che la Sampdoria gioca con tantissimo nervosismo e con la scimmia sulla spalla, classica di una squadra che non sa più in che modo affrontare questo momento. Sampdoria che subisce il gol al 20esimo, gol del Parma al 20esimo, cross da sinistra di Gobbi, scivola Martinez e Zaccardo di testa appunto riesce ad infilare la palla nella porta blu cerchiata, cosa che non riesce invece a Maccarone, che ha un rigore al 27esimo per un fallo piuttosto oscuro di Gobbi, probabilmente un fallo di mano, ma non è stato chiarissimo ciò che Valeri ha visto. Grandi proteste da parte dei parmigiani, Maccarone mette d'accordo tutti tirando un rigore da dimenticare alla svelta. Al 47esimo è espulso anche Zemaili per il Parma, che finisce in 10 ma vincendo questa partita. Da dire anche del Chievo, che incassa una vittoria fondamentale in termini di salvezza invece, vincendo 2-1 a Bari, in gol con Pellissier che si inserisce su una carambola con un errore difensivo del Bari e segna il gol dell'1-0. Quindi questo era al 38esimo, due minuti dopo, fallo di Fernandez su Bentivoglio, rigore trasformato da Ghezzal, e al quarto della ripresa Moscardelli ruba palla a Codrea al limite dell'area e segna il gol della vittoria dei veneti. 1-1 tra Bologna e Genoa, segna ancora Di Vaio, 28esimo, a proposito di grandi vecchi, lui è sempre di moda insieme a Di Natale nell'intero corso della stagione, Totti e Del Piero meno, però Di Vaio ha segnato anche oggi, complice un tocco di braccio abbastanza solare, mentre quello di Pazzini io sinceramente non lo vedo, secondo me si porta avanti la palla col petto, peraltro molto bene, in maniera molto astuta e da grande centravanti, tagliando fuori il difensore e quindi segna sull'uscita di Rosati, che peraltro nel secondo tempo e appena prima del gol aveva fatto una parata pazzesca sempre su Pazzini. Ma eravamo al Bologna, al gol di Di Vaio, non so fino a che punto regolare il suo controllo e poi diagonale di destro per 1-0, al 28esimo, al 43esimo Dainelli in mischia, dopo una punizione di Milanetto, primo colpo di testa di Dainelli, respinto dal portiere del Bologna e poi insaccato dallo stesso difensore del Genoa, ex Fiorentina. C'è il traffico, ma prima di questo voglio farvi sentire una battuta di Guidolin con Sky. Devo provarci prima di esprimermi di fronte alle telecamere. Diciamo che siamo contenti perché abbiamo fatto un altro passo in avanti in una partita non semplice, anzi complicata, per merito del Catania, e andiamo avanti, il nostro sogno europeo continua, siamo sempre lì a lottare con le squadre che sono tra il terzo e il quinto posto, molto vicine, abbiamo mantenuto le distanze da Juventus e Palermo, insomma sono altre squadre che lottano per l'Europa. Comunque direi che siamo soddisfatti della nostra prestazione, non è stata sicuramente la migliore, ma abbiamo vinto credo con merito. Mantiene la calma, ma 15 questo giorni fa è scherzo. Guidolin, mentre il mio amico Alberto prova a spiegarmi dicendo che sono fazioso e ipocrita, sempre di parte nelle valutazioni e con il chiaro obiettivo di orientare le opinioni, non di informare il pubblico, e sono da sempre così. Da che parte non saprei, ma magari Alberto me lo dirà. Non voglio creare una querela all'infinita, che questo è l'ultimo messaggio che leggo. Se vuole telefona 800 24 00 24, è il numero verde, vi aspetto qui dopo il traffico. Strade in diretta. Segnaliamo subito 9 km di coda sulla 4 Brescia-Padova per lavori tra gli svincoli di Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia. Il cantiere tuttavia è stato da poco smantellato. Il traffico è intenso verso le grandi città sull'autosole tra Firenze e Bologna in carreggiata nord, con rallentamenti nel tratto appenninico e tra Incisa e Firenze. In direzione Firenze poi code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte di Raeste e Santa Croce sull'Arno. Ancora per lavori code sulla 15 tra Borgotaro e Fornovo in direzione Parma, sulla 14 Adriatica in direzione Bologna code per un incidente tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro. Verso Modena, traffico intenso e rallentato sulla 22 del Brennero tra Trento Centro e Affi. Trafficate anche le autostrade della Liguria, dove si rallenta alle porte di Genova. Segnaliamo in particolare anche delle code per lavori sulla 10 tra Imperia Ovest e Imperia Est, sempre verso il capoluogo ligure. In direzione Torino sul raccordo A4 A5, rallentamenti per lavori tra la 5 Torino Osta e Albiano verso la 4 Torino Milano. Primi rientri anche a Roma, si rallenta sulla diramazione Roma Nord sino a Castel Nuovo di Porto, sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova e lungo la 24 Roma L'Aquila Teramo code alla barriera di Roma Est. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Dunque la classifica dice Milan 62, Inter 60 a quest'ora, a questo punto. Udinese Napoli appaiata 56, ma Napoli deve giocare stasera con il Cagliari in casa e sarà appassionante credo fino alla fine questo faccia a faccia per il terzo posto, che comprende naturalmente anche la Lazio che ne ha 54, non so se la Roma 50, certamente non la Juventus 45 e da lì tutte le altre. In coda Bari 17, Brescia 26 e Lecce 28, oggi non si sono mosse, così come il Cesena 29, e questa è forse l'unica speranza per la Sampdoria, che di punti adesso ne ha 31, è stata superata anche dal Parma che ne ha 32 come il Catania. Io saluto e ringrazio un bravo allenatore e un amico come Mario Beretta. Buon pomeriggio Mario. Buonasera a voi. Buonasera. Vorrei che mi aiutassi a leggere il momento del Milan e dell'Inter con la freccia innescata, come dicevo prima. Diventa difficile a questo punto credere ancora, come diceva Allegri nel bosco della vigilia, che comunque siamo i favoriti, comunque il Milan è favorito per lo scudetto. A questo punto diventa difficile crederlo. Beh, diciamo che è favorito per quell'1% dettato dai due punti di vantaggio. Sì. Quindi diciamo che al 51-49 è un po' meno secondo me dall'aspetto psicologico in questo momento. Però ovviamente in questo momento l'Inter è sicuramente favorita, perché in rincorsa ha messo fuori la freccia, il Milan è in difficoltà perché ha fatto un punto in due partite con Bari e Palermo. Certo. E con l'eliminazione peraltro dalla Coppa, mentre invece l'Inter ha preso grande entusiasmo invece col passaggio del turno. Sì, peace and love di Leonardo, tutti a dire, ha messo i fiori nei cannoni Leonardo. Beh sì, sicuramente avrà sicuramente un grande merito, ma io penso che avrebbe comunque potuto fare molto bene anche Benitez nel momento in cui gli avessero preso i calciatori che chiedevano, ma in quel momento in cui non avesse avuto gli infortuni che ha avuto lui, che poi dopo sono rientrati i vari Maicon, Cambiasso e via dicendo, e con l'arrivo di Ranocchia, di sì. Pastini, insomma. Bisogna rendere merito anche a chi comunque ha cominciato la stagione e ha vinto comunque due titoli. Certo, non c'è dubbio, anche se la sensazione è che quei fiori invece Benitez non li avesse, non avesse sì, credito. Probabilmente Leonardo è entrato in un certo modo, conoscendo probabilmente anche più l'ambiente, nonostante non ci fosse mai stato, però essendo da molti anni in Italia, sì. Sicuramente. Sì. A Milano, dall'altra sponda, ma pur sempre a Milano. Dall'altra sponda ha saltato il fosso e quel passo è lunghissimo, specie oggi. Assolutamente. Si è detto molto di Milan Ibra dipendente, ma probabilmente è così e tatticamente si vede, no? Perché devi cambiare pelle. Sì, poi in effetti anche perché non ha un attaccante che staziona centralmente, poi gli altri attaccanti sono tutti attaccanti di movimento, e quindi anche se poi lo stesso Ibra è uno che comunque si muove via indietro, però è un punto di riferimento troppo importante anche quando magari come in questo periodo non è non fa tanti gol, però li fa fare, però è sempre un calciatore che crea degli spazi, che crea occasioni per gli altri. Mister, ma il Milan, per il Milan è più un problema fisico o un problema di testa? No, no, per fisico credo di no, perché comunque ieri, insomma, messo al di là di tutto, non ha avuto grandissime occasioni, però se anche avesse pareggiato non c'era niente da dire, quindi comunque ha spinto fino alla fine, quindi fisicamente credo che stia bene. È un momento così di difficoltà, è dovuto anche, insomma, adesso al di là di tutto Ibrahimovic ci ha fatto una stupidaggine. Ah certo. Purtroppo è quella anche la fortuna, no? Di, sì, sì, no, momento, chiude il campionato, avere nessun infortunato, tutte a disposizione, poi teniamo conto di quelli che Milan ha fuori, perché insomma ha fatto quasi tutto il campionato senza Pirlo, Scamprosini fuori da tempo, insomma, quindi. No, ma lei è fortunello, lei è fortunello, ma non c'è dubbio, gli altri si complicano la vita, lui è fortunato con Pandev che si ricorda di avere i piedi d'attaccante al momento giusto a Monaco di Baviera, certo. Con l'urna che sembra una mina e lui pesca l'unico petalo buono che si poteva pescare. Fortunello è fortunello, non c'è dubbio. Poi però altri... indubbiamente ci ha messo del suo nel dare grande serenità e grande tranquillità e grande anche fiducia, perché insomma dopo la sconfitta in casa col Bayern ad esempio erano già tutti a dire ormai è finita, invece lui ha tenuto sull'ambiente dando fiducia alla squadra dicendo che comunque ce la si poteva fare, e poi in effetti così è stato. Bravissimo. Napoli-Udinese, due modi diversi di vivere questo campionato, ma entrambi bellissimi. Ah sì, no, indubbiamente secondo me l'Udinese per certi versi giocando anche un ottimo calcio quasi costantemente, diciamo a parte le prime 5 giornate come se non avessero neanche cominciato il campionato, però anche se poi anche lì aveva fatto 2 o 3 partite dove non meritava. Il Napoli con grande organizzazione, con grande individualità, sicuramente il Napoli secondo il mio parere rispetto all'Udinese andando decisamente oltre le aspettative. Ti volevo chiedere ancora questo prima di salutarti. La Sampdoria è nel classico momento, insomma, la classica squadra partita con ambizioni e giocatori molto diversi che si trova a battagliare in un posto in cui non pensava di essere. Di solito queste squadre non chiudono benissimo la stagione. No, chiaramente auguro la Sampdoria di chiuderla nel migliore dei modi, però sarà dura perché la sconfitta di oggi è una sconfitta pesantissima, perché in casa contro una diretta concorrente, in una squadra che fino all'anno scorso praticamente ha chiuso il campionato quarta e ha cominciato il campionato di quest'anno, ha cominciato la stagione facendo i primi ai Champions, quindi con altre velleità, con altre ambizioni, con altra squadra anche. Con Pazzini e Cassano che adesso non ci sono più, certo. Quindi sarà molto complicato. Grazie mister. Grazie a voi, buona continuazione. Un abbraccio, grazie a Mario Beretta. Io comincio a parlare con gli ascoltatori con piacere, ma prima vi faccio sentire Del Neri con Sky. Ha sbagliato molte soluzioni in chiave d'attacco e ha preso gol su un'azione un po' così su fallo laterale. Mi tolgo una curiosità. Mi tolgo una curiosità. Se ricominciassimo da capo, se fosse il 25 agosto in questo momento, lei penserebbe ancora di vincere il campionato o no? Ma se noi stiamo sempre tutti compatti, non c'è nessun infortunio, la squadra ha dimostrato di poter reggere il confronto con tutti. È da lì, non so se posso vincere il campionato o meno. So che la squadra, quando ha avuto un assetto giusto, era competitiva, poi ha perso giocatori per strada ed ha avuto un attimo di difficoltà. Ma però noi abbiamo giocatori che devono anche indossare una maglia importante, vengono magari da situazioni più serene, e quindi certe volte abbiamo pagato anche dazio in quel senso. Poi la squadra ha fatto, mi sembra, il suo fino a quando è stata compatta, non ha avuto infortuni. Quando sono cominciati infortuni abbiamo perso dei punti di riferimento, è chiaro che lì abbiamo pagato un pochino. Ne ha pagato qualcosa. Gigi, questo Del Neri. Io adesso parlo con Antonio dalla provincia di Caserta e poi con Andrea da Reggio Emilia. 800240024. Antonio, buonasera. Ciao, buonasera. Ciao. Io volevo, sono un tifoso milanista, volevo parlare del Milan e dell'anomalia Ibrahimovic. Anomalia Ibrahimovic. Sì. Io da quando mi ricordo che non ricordo un giocatore così anomale. Mi spiego. Nel senso che non ricordo una squadra così dipendente da un giocatore. Che però allo stesso tempo senza questo giocatore non riesce a dare praticamente a creare un un gioco, nel sì. senso che questo a Barcellona l'ha chiamato il tappo non per niente. Praticamente con Ibrahimovic tu vinci campionati e li vinci grazie a lui, ma quando ti viene a mancare questo giocatore, tu metti in evidenza tutte le tue lacune. È così, cioè, sì, ma è così. Nel senso che tu giochi in campionato, perché poi in Europa si vede che incontra giocatori più fisici, lo fermano dal punto di vista fisico e la squadra ne risente enormemente. In Italia invece fisicamente secondo me non siamo all'altezza, vabbè. Comunque, senza, di questo, senza questo giocatore, ora il Milan, abituato a giocare con Ibrahimovic, esprime tutto il suo non gioco. Anche, vabbè, ma è un giocatore importante. Però si vede che la manovra è praticamente molto lenta. A volte in difesa facciamo delle... per disimpegnare. Sì, però Antonio, queste non mi sembrano novità rispetto al passato, al recente passato del Milan, che il Milan sia una squadra con, lasciamo stare l'età media molto elevata, però con dei problemi difensivi, soprattutto quando viene a mancare Nesta, sono cose risalenti alla gestione Ancelotti e poi ancora a quella di Leonardo dell'anno scorso, no? Io mi preoccupo in previsione futura, nel senso che questo giocatore noi dobbiamo avere Ibrahimovic, sì, però penso come potremmo vincere la Champions League con Ibrahimovic, cioè noi dovremmo fare una squadra di fuoriclasse per far sì che riusciamo praticamente a diciamo in un certo senso a metabolizzare Ibra. Beh, il Milan secondo me rimane una squadra attrezzata per vincere il campionato italiano, adesso vediamo se ci riesce. Rimane comunque una squadra non all'altezza delle migliori in Europa, di questo lo dico dall'inizio e ne rimango comunque convinto. Certo, Ibra è condizionante, lo è sempre stato la sua carriera, è condizionante tatticamente, è condizionante come personalità per mille motivi, ne parliamo dopo perché adesso sentiamo Leonardo Moscai. Questa, dopo sì, aver dato tutto, sono un po' stanco, è stata una partita difficilissima perché Lecce secondo me ha fatto benissimo quello che volevano fare, abituato anche a giocare in questo modo, anche se mancavano certi giocatori, comunque l'idea di gioco, una squadra molto compatta che si difende bene, ti concede poco spazio a centrocampo, ripartono molto bene, era difficile, noi abbiamo giocato quasi tutto il tempo nella metà campo del Lecce ma con difficoltà di trovare gli spazi, ci voleva tanta testa in questa partita, tanta pazienza e veramente se non ci sei con la testa questa partita qua non la vinci. Andrea Favè. Avevi detto che era importante tornare, no? nel gruppo, ritornare nella notte, adesso sei a due punti, l'Inter è a due punti dal Milan, quella partita lì diventa determinante? Sono tutte determinanti, è vero che adesso ci confrontiamo a due punti del Milan direttamente, quello sicuramente è una partita che non sarà decisiva secondo me a livello di classifica perché mancheranno altre sette dopo questa qua, quindi la distanza si riduce senz'altro, questo è un grande stimolo, una grande motivazione e chiaramente era quello che volevamo di riavvicinarci sempre di più diciamo del primo posto, questo è il grande obiettivo, quindi se arriva al derby nelle condizioni diciamo migliore, detto questo mancheranno altre tante partite, 21 punti, quindi c'è ancora tanto, basta vedere la difficoltà della partita di oggi per vedere quanto sarà difficile fino alla fine. È una squadra l'Inter in Leonardo, flower power come Ginsberg, Kirouac, Bob Dylan in giacca blu, ma d'altra parte non è un abito che fa il Monaco, mi ha fatto morire da ridere, spirito che ha contagiato anche Mourinho da lontano, mi ha fatto morire da ridere la dichiarazione di Mourinho dopo aver passato il turno in Champions League dicendo ma l'Inter se la trovo prima meglio, se arriviamo insieme a Wembley, insomma, andiamo su una panchina sola, una grande festa con la chitarra e le collane di fiori. Non sarà proprio così, immagino. 800 24 00 24, numero verde. Andrea da Reggio Emilia, stia lì. Subito dopo il meteo parliamo insieme. Con Impresa Semplice di Telecom Italia, a partire da 10 euro al mese per 24 mesi, scegli tra i migliori smartphone e ogni due anni hai il modello nuovo incluso nel prezzo. Condizioni di recesso e costi su impresasemplice.it o chiamando il 191. Impresa Semplice, il meglio di team e Telecom Italia per il business. Nuovo design. Fari Bixa e Noi LS con luci diurne a LED. Cambio 7G Tronic Plus con Eco Start and Stop. Nuova plancia con strumentazione a colori e l'Attention Assist che state ascoltando. Finalmente una tecnologia che risveglia l'attenzione. Classe C nuova generazione, tutta un'altra classe. Il 26 e il 27 marzo scopri la gamma a partire da 31.900 euro. Offerta soggetta a disponibilità limitata nelle concessionarie aderenti. Info mercedesbenz.it. Dai con quella gru, veloce! Tira giù! Così! Attenzione con quell'impalcatura! E spostiamoli quei tubi! Se investi con le nuove obbligazioni Dexia Credit Serie al 4,85%, i tuoi soldi non costruiscono solo il tuo futuro, ma anche quello dell'Italia. E i tuoi risparmi potranno finanziare infrastrutture e opere pubbliche sostenendo lo sviluppo del paese. Chiedile alla tua banca o informati su www.dexia-credit.it. Prima dell'adesione, leggere il prospetto. Buongiorno, cosa le porto? Per iniziare un bignè, come primo un tiramisù e come secondo un bel babà alla crema. Sa, le bollette di luce e gas sono così salate che ho bisogno di qualcosa di dolce. Per chi non fa come me? Con Fly Energia del gruppo Energetic Source risparmia da subito, a casa e in azienda. Numero verde 800 90 35 17 oppure flyenergia.it. Addio bollette salate. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreform.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Fino a martedì clima più fresco e ventoso sull'Italia, ma con un po' di instabilità all'estremo sud. Poi da mercoledì e per qualche giorno l'alta pressione garantirà tempo soleggiato in Italia con temperature pomeridiane intorno a 20 gradi. Domani bel tempo al nord, regione centrale tirrenica e Sardegna, a parte una innocua nuvolosità tra Piemonte e Lombardia. Nubi sul medio Adriatico e sud con qualche pioggia già al mattino sulla Puglia centro-meridionale e poi nelle ore centrali del giorno anche in Calabria e sulla Sicilia orientale. Deboli oltre gli 800 metri sull'Appennina abruzzese. Temperature massime ovunque non oltre i 14-15 gradi, un po' ventoso su Adriatico e al centro-sud. Per maggiori dettagli consultate il sito meteo.it e con questo è tutto. Vuoi aprirti le porte del lavoro? Scegli LIUC, l'Università di Castellanza. LIUC è pensata dalle imprese per le imprese. LIUC ti segue con attenzione e ti prepara in modo accurato. LIUC è internazionale, con programmi di studio all'estero. Entra subito nel mondo del lavoro. Scopri dov'è il test di ammissione più vicino a te. Vai su liuc.it. Romantico, no? Due commercialisti nel loro studio a lavorare sullo stesso computer. No, perché accenderne un altro costo. A quest'ora del giorno. E passare a tutto più semplice web di utilità? È l'offerta di energia elettrica online dedicata ai liberi professionisti. Prezzo unico ogni giorno 24 ore su 24. Vai su utilita.com/radio24 e schiarisciti le idee, casa nuova. Celebrate i 150 anni dell'Unità d'Italia riscoprendo attraverso 15 città d'arte il carattere che la unifica. Con un viaggio ideale dalla Magna Grecia di Agrigento al Medioevo di Bologna, dal Rinascimento di Trento al Barocco di Lecce, capirete perché tutto il mondo ci invidia. Solo con il mensile I Viaggi del Sole. In edicola. La mia mamma ha la partita IVA e quando è in giro per lavoro usa il suo smartphone con il navigatore satellitare. Così quando viene a prendermi a scuola arriva subito. Più servizio per la tua attività, più tempo per te. Passa a Vodafone Partita IVA. A marzo hai una promo speciale. Un Samsung Galaxy Mini con mail, internet e più di 700 minuti di chiamate a 35 euro al mese per 6 mesi. Perché l'importante sei tu. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Altri piatti. Ma potrei invitare tutto lo stadio. Oh, i coltellini per il pesce e palla. Scegli il Foppa Pedretti, una lista nozze originale per vivere la tua casa in modo utile e nuovo. Foppa Pedretti, la tua lista nozze, fuori dal comune. A tempo di sport. Ecco che torniamo, mentre apprendono le agenzie che la lista degli scontenti in casa Roma si allunga. C'è Jeremy Menez che si è lamentato con l'equipe, con i giornalisti di casa sua, perché gioca poco, perché Montella non è stato sincero nei suoi confronti, perché l'ha messo in panchina, eccetera eccetera eccetera. Lista lunghissima questa. Andrea da Reggio Emilia, buonasera. Sì, buonasera, ciao. Dica. Due cose velocissime. Io di solito non chiamo mai, ma non volevo allungare l'acquerel, ma io ci tenevo a tutti i radioascoltatori dire che ascoltare domenica pomeriggio Claudio Genta è un piacere. Anche se mi chiamo Carlo, ma fa niente, ti ringrazio. Non c'è problema, scusa, ma per l'acume e l'approfondimento, non solo sportivo, ma anche soprattutto psicologico, di tutti i risvolti sportivi. No, vabbè, io mi diverto. Poi se non posso dire la mia, mi annoio. È istintivo telefonare. Grazie. Detto questo, 25 anni di esperienza di ex calciatore, volevo tessera delle lodi al gruppo del Napoli, al gruppo dell'Udinese, perché no, essendo io emiliano, anche al Bologna. Come no? E invece di parlare di Inter, Milan, Juve, insomma le solite grandi regine, dare spunto a queste tre grosse società che per diversi motivi secondo me sono al momento delle belle sorprese del campionato italiano. Tutto qua, insomma. Dubbi zero. Grazie Andrea. Grazie a voi. Ci vediamo per cena, grazie. Adesso però andrei a Torino da Giancarlo Tenivella, che dovrebbe essere con Matri. Ho capito bene? Sentiamo. Non so mica se è con Matri, doveva essere con Matri, forse Matri aveva da fare. Vediamo se riusciamo più tardi con Giancarlo Tenivella a pescare qualche protagonista della partita di Torino. Intanto Giovanni Capuano è a San Siro. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, sono da solo perché si stanno allungando le operazioni del dopo partita negli spogliatoi. Sì, perché? No, niente, credo qualcosa. Tutto tranquillo. Di fisiologico. C'è un po' di ritardo nelle interviste televisive, quindi di conseguenza cascata si va in ritardo un po' tutti. Senti, ma oggi il gol di Pazzini, grosso modo partita gestita dall'Inter, no? Mi pare, gestita dall'Inter, che credo abbia un pizzico di rabbia per quella fesseria di Lussio a metà campo, che costerà il derby a un giocatore che non è facilmente sostituibile. No, direi proprio di no. L'errore di Lussio è un errore pesantissimo, anche perché le ultime prestazioni di Córdoba, che tornerà disponibile, oggi era squalificato, dicono chiaramente della difficoltà che avrà Leonardo di sostituirlo al centro della difesa. Tra l'altro Ranocchia è un giocatore che ha offerto un ottimo rendimento, ma lo ha fatto soprattutto quando al suo fianco aveva Lussio, e quindi sarà da questo punto di vista un'incognita, tra l'altro di una partita che sarà quasi impossibile da preparare, perché l'Inter perde 16 giocatori questa sera, li ritroverà alcuni addirittura 48 ore soltanto prima della derby del 2 aprile, e tra l'altro reduci da viaggi intercontinentali, quindi sicuramente con l'impossibilità da parte di Leonardo di preparare alcuni meccanismi, quindi soprattutto in questa occasione avrebbe avuto bisogno il tecnico di non inventarsi niente di diverso dalle scelte che oramai sono certificate e lo sono state anche oggi, ad esempio, a dispetto della stanchezza che passa evidente sin dal primo minuto del primo tempo in una squadra che oggi Leonardo ha però scelto di schierare con 9 undicesimi dei titolari di Monaco, di fatto togliendo soltanto Stankovic e Ranocchia, facendo rientrare Pazzini e Zanetti. Ha tenuto in panchina Mariga, Carjana, Gatomo, insomma ha preferito comunque dare spazio soltanto ai titolari. Ha pagato molto dal punto di vista del ritmo, della precisione, dell'intensità, dell'attenzione. In questo contesto c'è da spiegare forse anche il gesto, altrimenti poco spiegabile, di Lussio, che è parso al pari di tanti altri appannato e che gli è costato il cartellino giallo. Alla fine l'Inter la partita l'ha vinta in un minuto, con due occasioni di Pazzini, una parata di Rosati, il gol dell'1-0. Benissimo. L'ha vinta su un miracolo di Giulio Cesare, però insomma certamente una partita ben diversa da quelle nel contesto delle ultime prestazioni non c'è dubbio. Giovanni, stai lì, facciamo un salto a Torino dove c'è Giancarlo Tenivella, che dovrebbe essere con Aquilani. Proviamo a sentirlo. Però noi li capiamo, cerchiamo di dare delle grandi soddisfazioni. Ovvio che è stato un campionato difficile, adesso mancano 8 partite, speriamo di meno di dargli qualcosa a livello emotivo in queste 8 partite. Secondo, che spiegazione ti sei dato per questo crollo verticale che avete subito? In direzione infante, adesso non lo so, sicuramente siamo tutti responsabili di questo, ci dispiace, però non è finita, e è ovvio che mancano, ripeto, 8 partite, ci dobbiamo piangere addosso, andare avanti e guardare avanti, il passato ormai è passato. Ecco, proprio con te guardiamo avanti, perché la prossima sarà la Roma, una squadra che tu conosci bene, nelle cui giovanili sei cresciuto. Sì, non solo in giovanile, per me sarà una partita delicata, io ho passato una vita a Roma, e quindi sicuramente penso la parola di uso quella, appunto, la partita delicata, diversa da tutte le altre. Ecco, però sono i 3 punti per un Juventus che dove può arrivare? Juventus deve vincere la prossima, e poi vediamo, però obiettivi io non me ne pongo personalmente, penso anche il mister ha parlato che adesso mancano 8 finali, cerchiamo di vincere tutte e 8, non sarà facile, perché non sarà facile, però quello deve essere la mentalità e l'obiettivo partiamo con te. Che deve fare la Juventus? Questa è Aquilani in diretta con Giancarlo Tenivella. Che deve fare la Juventus? Vince, torna a vincere dopo tre sconfitte e un pareggio, ma nulla cambia in classifica perché i distacchi rimangono praticamente invariati, aspettando il Napoli di questa sera, ma mi sembrano francamente irraggiungibili sia il Napoli che l'Udinese, non solo per i punti di distacco, ma per il fatto che non mi sembra abbiano alcuna intenzione di fermarsi. Vorrei tornare per un attimo a Giovanni Capuano. Si è, insomma, è stato un po' contestato questo gol di Pazzini. Io ho rivisto mille volte il replay, sinceramente in un fallo di mano non riesco a vederlo, Giovanni. Si parlava prima con Mario Beretta di quella vena di fortuna dell'Inter che onestamente un po' esiste, no? Perché ad esempio oggi Rosati era ancora lì a pulirsi i pantaloncini dopo una paratona su Pazzini, torna in gioco la palla e Pazzini segna quel gol. L'ultima perlina, poi c'è lo Schalke 04, poi c'è Pandev che si ricorda di essere un grande attaccante all'89esimo della partita più delicata, quando poi il Bayern non può più recuperare. Tanti piccoli episodi, compreso questo. Allora, io ti divido la risposta in due parti. La prima sul presunto fallo di mano, ti dico che se ne parlerà per due settimane, complice anche il fatto che il campionato va in letargo, anche perché si respira, te lo dico, sono sì. Qui nella sala stampa di San Siro, un po' di irritazione per quello che stanno vedendo in televisione i dirigenti dell'Inter, questo cioè? Parallelo tra il fallo di mano di Ibrahimovic in Milan-Bari, che era un fallo di mano abbastanza evidente, e invece questo contatto che ha portato al gol di Pazzini, che anche a me onestamente non è parso fallo di mano, ma che in ogni caso è certamente differente dall'azione. Sì, no, ma al di là di quello, sono semplicemente due episodi. È chiaro che quello di Ibra era fallo di mano, questo di Pazzini a me non sembra. Però, sai, è la suggestione del momento, no? Così. Io ti riporto che cosa sta succedendo proprio in questi minuti. Perché è diventato tema di discussione. Sì. Nel tenere le tante televisioni accese, come sai, esistono nelle sale stampa. Per quanto riguarda l'aspetto della fortuna, io ho l'impressione che oggi l'Inter avesse scelto di condensare i suoi sforzi soltanto nella seconda parte della partita. È stata fortunata a trovare il gol di fatto al primo assalto, che si è concentrato in 50 secondi con la parata di Rosati e poi la rete di Pazzini. Ho l'impressione che l'Inter avesse ancora qualche minuto comunque di autonomia all'assalto, nelle gambe, per provare a vincere questa partita, anche se non ci fosse stato quell'episodio. Poi di fatto ha cercato di controllarla, ha rischiato pochissimo, anche se è vero che nel finale Giulio Cesar ci ha dovuto mettere i guantoni. Poi per il resto la stagione dell'Inter, sinceramente, anche in questa fase è una stagione secondo me con un saldo abbastanza neutrale, perché tutti parlano del gol di Pandev a due minuti dalla fine, ma di fatto il Bayern aveva vinto al 90esimo in maniera abbastanza simile a San Siro. È vero che l'Inter ha pescato lo Schalke, ma diciamo che ad esempio a Real Madrid e Barcellona non è andata tanto peggio, insomma, in questo sorteggio per i quarti di finale. Poi è evidente che la fortuna è una qualità, assolutamente. Non è un peccato, è una qualità senza la quale vincere gli scudetti e le Coppe dei Campioni soprattutto è impossibile. Io ti dico che il festeggiamento che hanno fatto i giocatori dell'Inter al fischio finale oggi dell'arbitro è stato quasi superiore a quello martedì dopo la qualificazione a Monaco di Baviera. Secondo me è il segno di due cose. La prima è che evidentemente questa partita è stata ben più sofferta di quanto si potessero attendere. La seconda, che l'Inter gioca da tre mesi per arrivare a questo punto, cioè a poter avere ancora in mano il suo destino in campionato. A questo punto, fra due settimane, nel derby potrà giocarsi, guardando in faccia l'avversario, la possibilità di completare questa rimonta. C'è il problema della squalifica di Lucio, di non poter preparare da questo punto di vista la partita. Io posso immaginare che probabilmente sarà confermato Chivu al centro della difesa, sì, con Ranocchia, che ha arretrato Zanetti a sinistra, però bisogna vedere mancano due settimane, 2 aprile, cosa succede. Certo, bisogna vedere cosa succede anche dall'altra parte, perché c'è Patto, notizia di oggi, che ha problemi a una caviglia e ne avrà per almeno 10 giorni dopo la partita di ieri sera a Palermo. Io ringrazio Giovanni Capuano da San Siro. Traffico, poi torniamo insieme a 800240024 per le vostre telefonate tra poco. Strade in diretta. E difficoltà per i rientri dal ponte sull'autosole e rallentamenti nelle due direzioni sul tratto appenninico e tra Incise e Firenze verso Bologna. Verso Firenze altre code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte di Raeste e Santa Croce sull'Arno. Ancora per lavori 3 km di coda sulla 15 della Cisa tra Borgo Taro e Fornovo in direzione Parma. Sulla 4 Brescia-Padova code tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Brescia e lungo il tratto milanese della 4 code a tratti tra Peiro e Cormano verso Brescia. Sulla 14 Adriatica code a tratti alle porte di Bologna e tra Faenza e Dimola sempre verso il capoluogo emiliano. Traffico anche in direzione Modena sulla 22 del Brennero, si rallenta tra Trento Centro e Daffi. Rimangono trafficate anche le autostrade liguri dove ci sono code alle porte di Genova sulla 12 a partire da Rapallo e sulla 10 segnaliamo anche delle code per lavori tra Imperia Ovest e Imperia Est e forti rallentamenti a tratti in direzione del capoluogo ligure a partire da Albenga. In direzione Torino rallentamenti sulla 5 Torino Aosta per lavori tra Quincinetto ed Ivrea e sul raccordo a 4 a 5 sino ad Albiano. Rientri anche a Roma, si rallenta sulla diramazione Roma Nord sino a Castelnuovo di Porto, sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova e lungo tutto il tratto urbano della 24. È tutto, appuntamento tra mezz'ora. Promo 24. Essere all'avanguardia significa non smettere mai di evolversi. E la tecnologia di Audi A4 supera ancora se stessa con le nuove versioni Ambiente Plus e Advanced Plus. La versione Ambiente Plus è concepita per il comfort di chi viaggia e offre tra gli altri climatizzatore automatico a tre zone, sensori di parcheggio posteriori, interfaccia Bluetooth, regolatore di velocità e sistema di navigazione con DVD. La versione Advanced Plus è invece progettata per chi ama l'aspetto più sportivo di Audi A4 e contiene fari Xenon Plus con luci a LED, cerchi in lega da 18 pollici, pacchetto S-Line Exterior e Open Sky. I nuovi allestimenti sono disponibili per Audi A4 e A4 Avant con un vantaggio cliente superiore al 50%. Maggiori informazioni su audi.it. A tempo di sport. Torniamo, c'è Luca da Comosellina, c'è Del Piero che sta parlando da un po' con Sky, chissà cosa dice. Sì, cose ben più importanti alle quali io e la società magari in questo momento dovremmo pensare, no? Quindi a uscire da questo momento, a far bene queste nuove partite e a sperare nelle migliori cose da qui alla fine. Ci sono 201 gol di Totti in Serie A e 256 con la maglia della Roma. Siccome di bandiere ce ne sono poche, siete rimasti molto pochi. Un commento su questo traguardo? È un traguardo strepitoso, fantastico. Insomma, quello che accomuna Francesco alla Roma è qualcosa di straordinario. E quindi ma ti aspettavi che avrebbe segnato in fondo più di te? Quando cominciaste insieme molto tempo fa e tu eri molto più attaccante di lui. Beh, quando segnerà più di me, avrà segnato più di me, possiamo ne parlare. Oggi non ha segnato più di me. Mi piacciono queste sfide a suon di grinta e di talento. Però dai, sono vecchietti ancora. Ancora credibili, diciamo così, ma poi soprattutto in momenti come questo, ripeto, è difficile anche per questioni di rapporti con i clienti, col pubblico, è difficile rinunciare a questi giocatori. Infatti Del Neri ormai se ne guarda bene dal non mettere il suo capitano tra i titolari e Montella figuratevi un po'. Anche se, come l'ha lasciato fuori in alcune circostanze, appena arrivato, eccetera, eccetera, però io credo che da qui alla fine lo vedremo molto più spesso in campo che non in panchina, Francesco Totti, giunture permettendo. Cioè, chi si lamenta, il Milan segnava all'ultimo e ci credeva, noi invece abbiamo fortuna, questi sono naturalmente interisti. Beh, l'Inter, non dico che è tutta fortuna perché sarei un idiota, però ha avuto molta fortuna nell'ultimo periodo nel riagganciare il treno della Champions che sembrava scappato, perché l'altra sera con il Bayern ha avuto il demerito di mangiarsi un miliardo di occasioni nel primo tempo con una difesa dell'Inter che non è stata al massimo della vita. Nel secondo tempo invece l'Inter è rimasta agganciata a quella partita e poi onestamente se segna il 90esimo un po' di fortuna, come d'altra parte ha ammesso anche Leonardo, ce l'hai pure, no? Non mi sembra, ma ripeto, avere la fortuna è una qualità, non è una diminuzio, questo mi sembra evidente. Luca da Como, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta, io vorrei un suo commento e darle una mia chiave di lettura sulla crisi della Sampdoria. Io per professione mi occupo di organizzazione aziendale e di gestione, diciamo così, delle tematiche delicate di negoziazione. Sì. Guarda, sì. Io ho l'impressione che in Sampdoria sia proprio saltato completamente quello che è l'organizzazione della squadra. Facciamo un passo indietro da quando se n'è andato Marotta e poi a seguire con tutte le diatribe legate ai calciatori più rappresentativi, Cassano e Pazzini. A me sembra veramente che in questo momento il presidente Garrone avrebbe la necessità di poter riorganizzare la squadra attraverso delle persone che abbiano una competenza adeguata per gestire una società di questo tipo. Io credo che il problema non sia neanche tanto sull'organizzazione del gioco, pur avendo cambiato l'allenatore, ma sull'organizzazione. Ma mi pare che in questo momento il problema contingente sia quello di salvarsi. Poi a rimettere a posto la società... questo è evidente, è andato via Marotta che aveva costruito un certo tipo di squadra, è arrivato Gasperin, poi è andato via, c'è stato un discreto andirivieni di dirigenti nell'ultimo periodo in questa disgraziata e strana stagione sampdoriana, però mi sembra che nell'immediato il problema sia proprio quello di raddrizzare una barca, no? Una barca prima che non tiene più. Certo. E si fa grosso modo sul campo, secondo me è stato... probabilmente un errore quello di mandare via Di Carlo. Non so quale fosse l'ambiente, quale fosse il rapporto con i giocatori, mi sembrava molto demoralizzato anche lui, questo mi pare evidente, però in situazioni di questo tipo, quando parti da un certo punto che sono preliminari di Champions League con certi giocatori, con una stagione vincente alle spalle in cui hai vinto e ti sei pure divertito con Cassano, con Pazzini, hai cavalcato quell'onda che ti ha portato in Europa, ecco, ti trovi lì e soffri all'inizio, poi Cassano litiga col presidente muro contro muro e non ce l'hai più da novembre, Pazzini va via insieme a Cassano che peraltro non gioca più da due mesi al mercato di gennaio, ti trovi lì in quella situazione, perdi un po' di partite, perdi fiducia, hai probabilmente anche una squadra che è costruita con una che è settata in modo differente rispetto alla lotta per la salvezza. Aggiungi che i giocatori che hai preso, Macheda, Maccarone e gli altri che sono arrivati di rinforzo, non stanno facendo un granché. Guardiamo il rigore di Maccarone di oggi, che è solo un episodio, che non... Non è da un rigore che si giudica un giocatore, diceva qualcuno, però insomma è un rigore fondamentale e non credo che quelli che sono andati via l'avrebbero sbagliato. Insomma, tutte queste situazioni mi portano a pensare che la Sampdoria sia seriamente indiziata per la retrocessione, questo voglio dire. Ma io sono completamente d'accordo con lei, nel senso, prima cosa è portare a casa la pelle, quindi salvarsi. Esatto. Automaticamente sarà necessario per il presidente Carrone e per i vertici societari dover riorganizzare la società. Sì, grazie. Sì. A lei, tutto sta a vedere cosa Garrone vorrà fare dopo questa stagione, cosa ha in testa il presidente sampdoriano, magari si è anche stufato, questo però io non lo so. Luciano da Napoli, buonasera. Buonasera. Dica. Volevo chiedere, secondo voi è più decisivo Ibra per il Milan o il Pocio Lavezzi per il Napoli? Scusi? È più influente Ibra per il Milan o il Pocio Lavezzi per il Napoli? Bella lotta, secondo lei? Secondo me sono tutti e due decisivi, però si è sottovalutata l'assenza di Lavezzi a Napoli. Ma io non l'ho sottovalutata. Sta dando risalto all'assenza di Ibra, o sbaglio? No, io non l'ho sottovalutata per niente, ma basta guardare il cammino del Napoli in assenza di Lavezzi, che non riguarda soltanto quelle tre partite. Il Napoli non può assolutamente fare a meno di Lavezzi, così come non può fare a meno di Cavani e delle sue stelle, no? Dei suoi giocatori. Tante volte abbiamo detto che il Napoli arriverà laddove lo porteranno i suoi giocatori più importanti. È chiaro che Lavezzi, che Cavani sia un po' appannato, complice anche l'assenza di Lavezzi, d'altra parte con quelle medie realizzative non poteva andare avanti, quindi si è preso un periodo di riflessione. È evidente che Lavezzi ha delle qualità esattamente come Ibrahimovic, e qui ci sta il parallelo, ha delle qualità esattamente come Ibrahimovic che lo rendono nel Napoli insostituibile. Perché? Perché... Dica. No, dicevo, come mai si continua a parlare parlando di scudetto, di derby Milan-Inter, quando poi il Napoli, se dovesse vincere stasera, sarebbe a un punto dall'Inter e a tre del Milan? Sì, no, ma il Napoli non lo esclude nessuno. Forse è sottovalutato. No, il Napoli non lo esclude nessuno dalla lotta a scudetto. Al Napoli restano quelle due occasioni che ha perso, secondo me. Quelle due partite non giocate bene a Milano, con l'Inter prima, quando ancora non era un confronto scudetto, e quella con il Milan, che al di là dei soliti episodi, il Napoli non ha interpretato bene quella gara, complice naturalmente l'assenza di Lavezzi che tutti conosciamo, e qui possiamo tornare indietro, da qui il termine dietrologia, fino a dove vogliamo. Però certamente Napoli quelle partite non le ha interpretate bene. È altrettanto evidente che in corsa scudetto c'è anche il Napoli. Io non lo vedo, continuo a non vederlo da scudetto. Se lo vincesse, però, e quindi se mi sbagliassi, l'ho detto molte volte, sarei particolarmente contento. Intanto io vi giro, prima del GR, le quote della SNAI, dei bookmakers, per lo scudetto, che a quest'ora vedono Milan e Inter alla pari, 2,25 ha pagato lo scudetto di entrambe. Poi vi do anche la quota del Napoli se volete. 800240024, il numero verde, dopo il GR vi aspetto. A tempo di sport. Ecco che torniamo insieme, 800240024, il numero verde, messaggi 349-238-6666, contatto che Davide usa per scrivere: è il Milan che sta perdendo il campionato, non è l'Inter che lo sta vincendo. Mi sembra abbastanza una questione di lana caprina questa. Certo è che se la capolista gioca come ha fatto ieri sera a Palermo, dietro tutte hanno la speranza, Napoli compreso, come dicevamo prima con l'ascoltatore, tutti devono avere la speranza di andarla a prendere, non soltanto l'Inter. Saluto e ringrazio Marco Ansaldo, inviato della Stampa, il nostro amico. Ciao Marco. Ciao. Sei d'accordo? Non solo l'Inter, anche il Napoli. Se il Milan è quello... No, ma Napoli, attenzione, c'è anche l'Udinese che sta venendo. L'Udinese, naturalmente. È una situazione, una condizione, in un momento in cui riesce tutto, e quindi 6 punti di distacco, mi sembra sia soltanto 6, non sono poi un ostacolo così incredibile, soprattutto perché l'ultima giornata incontra il Milan. Certo, è carina questa di Del Piero che sto leggendo sulle agenzie, me la sono persa tramite i microfoni di Sky. Gli hanno chiesto: ma Del Neri ha detto che ti sei ritrovato? E lui risposta: veramente non mi sono mai sentito perso, sono molto sereno e sto bene. Del Piero Dixit. Direi che è la risposta più intelligente che poteva dare a un giudizio di un allenatore evidentemente un po' in uno stato di confusione negli ultimi tempi. Da un po' sì, nonostante quello, Marco, è rimasto in sella alla Juventus. Dice, questa vittoria che non è molto diversa, ad esempio, da quella con il Bari, dove guarda caso aveva segnato Del Piero il gol decisivo, non è molto diversa da tutte le altre che sono arrivate in questo 2011. Sì, diciamo che l'involuzione della Juve è evidente, non è questa partita qui che dimostra qualcosa, perché questa partita l'ha fatta Del Piero, ma non solo nel gol, l'ha fatta proprio nello spirito, nel modo di giocare, ha dato assist, ha recuperato palloni, credo che abbia contato 2 palloni sbagliati in tutta la partita e credo che ne abbia giocati tantissimi. E allora quando poi alla fine una squadra si consegna a un campione, diciamo l'ultimo testimone della vera Juventus, vuol dire che il gioco non c'è, manca, ecco. Certamente, il fatto che Del Neri sia rimasto su quella panchina nonostante il pessimo 2011, secondo te è stato un errore oppure no? Io penso di no, perché le esperienze degli ultimi anni hanno dimostrato che poi il cambio non porta nulla, anche perché adesso con chi vai a cambiare Del Neri? No, è giusto che Del Neri resti fino in fondo, che cerchi di fare il meglio che può. Mi dispiace perché è un allenatore in cui io francamente credevo molto, ci ho creduto soprattutto intorno a novembre-dicembre, quando la Juventus sembrava aver trovato veramente un gioco, un equilibrio, una stabilità anche in difesa, ed era una squadra che poteva dare fastidio a tanti anche nella lotta per lo scudetto. Poi non ho capito cosa diavolo è successo col cambio del calendario, è cambiata anche la squadra, evidentemente l'epifania tutta la Juve ce l'ha portata via. Sì, come da qualche stagione a questa parte. Che impressione ti sei fatto sul Milan invece, Marco? Ma sai, io ieri tra l'altro il Milan l'ho visto solo a fezze e bocconi, sicuramente è una squadra che comincia ad ansimare, ci sono alcuni giocatori che sembrava potessero dare qualcosa, il tipo Cassano, l'idolatrato Cassano, che anche lì mi sembra stia cominciando a battere un po' in testa, come si usa dire, cioè sì. a non girare a pieno, e probabilmente anche una squadra un po' stanca, e sta sbagliando moltissimo, è una squadra che fatica in questo momento e immagino che possa essere recuperata. Qualche ascoltatore se l'è presa perché io dico che l'Inter è anche, che Leonardo è anche un uomo oltre che bello, ricco, intelligente, pure fortunato, ma non mi sembra che sia una diminuzio questa. Certamente in questa rimonta, nel riacciuffare la Champions League, nell'urna di Nyon, un po' di fortuna l'ha avuta, eh? Eh beh, oh, però insomma, si dice sempre, non mi ricordo quale grande industriale diceva che i suoi manager non dovevano essere dei grandi manager di idee, ma di fortuna. Quindi insomma, tutto sommato, lui è la conferma di questo. Diciamo comunque che l'Inter ha ritrovato, io l'ho vista ad esempio in Coppa, quando tu hai gente come Eto'o soprattutto, cioè se riesci a stare appiccicato alla partita fino in fondo, poi qualcosa questo ti riesce a combinare, e si è visto in Coppa. Quindi sono questi i giocatori che diventano veramente determinanti per una squadra. Tu puoi giocare anche male, però hai uno o due di questi giocatori che ti inventano il colpo, la giocata, qualcosa di importante, e a quel punto vinci una partita che altrimenti non avresti vinto. Oggi ho visto anche, tra l'altro, un gol molto bello di Pazzini, non ho capito bene se ho toccato col braccio o no, secondo me no. Anche secondo me. Comunque, in ogni caso, un gol di grande fattura, di grande coordinazione, quindi i giocatori ci sono nell'Inter, ecco. Certo. Parla l'handicap di inizio stagione, quando Moratti non comprò a Benitez il giocatore che poi ha comprato sicuro a Leonardo, e che anche lì è stato fortunato, se vogliamo aggiungere pure questo punto. Marco, ti chiedo un'ultima cosa in chiave convincente, o fortunato o molto convincente, o molto convincente, naturale. Ti chiedo un'ultima cosa in chiave azzurra, la mancata convocazione di De Rossi e Balotelli, questo codice deontologico che dopo Cassano toglie volontariamente per scelta precisa a Prandelli i giocatori, secondo te è troppo penalizzante o è una chiave corretta? Secondo me è una chiave corretta, e devo anche dirti una cosa. De Rossi ha un po', c'è un certo vizietto negli ultimi tempi, a me è un giocatore che piace in maniera immensa, però devo dire, deve levarsi un po' certe abitudini. Balotelli è la grande delusione, cioè nel senso che quando io penso che anche a Prandelli, che lo ha tenuto in palmo di mano fino all'ultimo, siano cadute le braccia quando ha visto quello che ha combinato l'altro giorno. Quindi secondo me è giusto che si faccia. Nella nazionale, secondo me, il vero problema adesso è costruire la difesa, perché se già su Buffon ha giocato benissimo a Cesena, ma oggi è sicuramente complice nel gol del Brescia, e se metti dietro Chiellini in queste condizioni, non so come diavolo può finire in Slovenia. Grazie Marco, buon lavoro. Ciao. Un abbraccio, grazie Marco Ansaldo. Maurizio, provincia di Messina, altro ascoltatore, 800 24 00 24, numero verde. Salve Maurizio, dica. Salve, buonasera. Sono un tifoso del Milan, ho seguito, vedo spesso le partite. Io credo che quest'anno il campionato si giocherà come l'anno scorso, nelle ultime giornate. Chi ha più forza fresca, può essere magari l'Inter, se riesce a passare il turno in semifinale perderà un po' di gol. Sì, ma quindi lei non vede il derby decisivo come Leonardo? No, perché c'è, anche se l'Inter vince c'è un sorpasso di un punto, può essere magari qualche altra partita, perché poi c'è anche... Lo so, però lei sa bene che quando riesci a mettere la testa davanti difficilmente poi ti riprendono, questioni psicologiche, Scusa, però l'anno scorso la Roma com'è stata? Ha preso la testa e poi ha perso in casa. Difficilmente, salvo cose imponderabili o suicidi sportivi come quello della Roma. Perché poi c'è l'ultima partita, adesso l'ultima, Napoli-Inter, può essere anche il Napoli che vince, può mettersi in testa e vincere lo scudetto. Sì, no, assolutamente, ma comunque io il derby lo vedo abbastanza decisivo proprio per questo, cioè se l'Inter dopo tanto rincorrere riesce a battere il Milan e appunto a mettere la testa davanti, insomma, secondo me diventerebbe difficile da riprendere, anche perché non dimentichiamo che subito dopo il derby acquista lo snodo cruciale del campionato, al di là del fatto che mancano molte partite eccetera eccetera eccetera, però insomma in questo turno era chiaramente favorevole all'Inter, infatti l'Inter lo ha capitalizzato. Non mi aspettavo una sconfitta del Milan a Palermo, ma è accaduta, e con pieno demerito del Milan. C'è il derby appunto tra due settimane e dopo una pausa per la nazionale, che a questo punto credo convengo un po' di più ad Allegri che non a Leonardo. E subito dopo il derby il Milan va a Firenze sul campo di una Fiorentina che è in grande salute e che ha ancora lontane speranze di Europa, minore naturalmente, cioè quella dell'Europa League, che potrebbe anche acciuffare nel caso in cui riuscisse ad arrivare davanti alla Juventus e nel caso in cui la finale di Coppa Italia fosse tra le due milanesi, quindi ci sono anche questi conti da fare. Comunque la Fiorentina, al di là di questo, una Fiorentina certamente in ripresa. Quel giorno l'Inter avrà in casa il Chievo, dunque dopo il derby questo è il menù e io vedo uno snodo particolarmente importante per la corsa a scudetto, questo è il mio pensiero. Traffico, poi Maurizio dalla provincia di... no, Maurizio dalla provincia di Messina c'è già stato, Alessandro da Milano. Strade in diretta. Traffico molto intenso verso le grandi città per i rientri dal ponte del 17 marzo. Sull'autosole ci sono rallentamenti nelle due direzioni, sul tratto appenninico e tra Incise e Firenze verso Bologna. In direzione Firenze ci sono code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno. Ancora per lavori code di 9 km sulla 15 della Cisa tra Borgo Taro e Fornovo in direzione di Parma. Sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti per traffico verso Bologna, tra Cattolica e Riccione, tra Forlì e Imola. Trafficata anche la diramazione per Ravenna verso la 14. Code poi sulla 4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Brescia lungo il tratto milanese della 4 tra Pero e Cormano verso Brescia. Traffico anche in direzione di Modena, siamo sulla 22 del Brennero con rallentamenti fra Trento Centro e Affi. Trafficate poi le autostrade Liguri dove ci sono code in direzione di Genova sulla 12 a partire da Rapallo, sulla 10 code tra Imperia Ovest e Imperia Est, rallentamenti e code a tratti tra Albenga e Savona e da Celle Ligure fino al bivio per la 26. In direzione Torino rallentamenti sulla 5 Torino Osta per lavori tra Quincinetto Ivrea e sul raccordo a 4 a 5 sino ad Albiano in direzione della 4. Infine rientri anche a Roma con rallentamenti sulla diramazione Roma Nord sino a Castelnuovo di Porto, sulla diramazione Roma Sud code da Torrenova e lungo tutto il tratto urbano della A24. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con Strade in diretta tra mezz'ora. Promo 24. Il clima ideale aiuta a rilassarsi e a cancellare lo stress. E adesso a Marrakech ci sono 26 gradi. In questo momento dell'anno è tempo di prenotare una vacanza in Marocco. Soli, con la famiglia o con gli amici, c'è più scelta, si spende meno e ci si sente subito in vacanza, nella terra di un popolo accogliente, in pace, all'ombra delle palme e di una storia antichissima. Il Marocco vi aspetta su www.visitmorocco.com. A tempo di sport. Dunque, io ho gli amici fantacalcisti che mi scrivono come domenica scorsa e mi chiedono riepilogo dei marcatori, cosa che per i miei amici fantacalcisti faccio con grande piacere. Naturalmente mi limito alle partite di oggi, non a quelle di ieri, dove avranno già comprato i giornali opportuni e fatto le medie opportune. Partite di oggi, Mutu e Gamberini per la Fiorentina, doppietta di Totti per la Roma e poi nel pomeriggio Chievo che vince 2-1 a Bari, segnano Pellissier e Moscardelli, Ghezzal su rigore per il Bari, Di Vaio e Dainelli nell'1-1 tra Bologna e Genoa, Pazzini nell'1-0 dell'Inter sul Lecce, Krasic e Del Piero per la Juventus e Der per il Brescia, momentaneo pareggio, Zaccardo che ha dato la vittoria al Parma, Inler e Di Natale che chi se l'è preso quest'anno al Fattacalcio ha fatto bingo, Di Natale su rigore per l'Udinese 2-0 al Catania. Spero siano contenti anche i miei amici fantacalcisti. Alessandro da Milano, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Dica. Sono d'accordo, sono milanista innanzitutto come il mio predecessore che ha telefonato, sono d'accordo con la vostra disamina. Secondo me il Milan non merita finora, soprattutto per queste ultime 6-7 partite che si sono viste, compresa la Champions, dove l'uscita col Tottenham al ritorno, io non ero d'accordo con quello che sentivo in giro, ho visto la partita, tutti dicevano Milan è uscito il migliore, la squadra migliore, cioè, se perdi, se fai 0-0 a Tottenham con una squadra che secondo me è da medio livello, non sei una grande squadra, hai grossi problemi, senza Ibra è colpa sua ovviamente, abbiamo moltissimi problemi, anche qua la fantascienza che diceva il Milan giocherà meglio, secondo me non abbiamo tanto a un giocatore, a un giocatore come Ibrahimovic non puoi rinunciare, il resto sono palliativi. Guardi, no, sentite di tutti i colori questa settimana, soprattutto da noi milanisti, giocheremo meglio. No, giocare meglio no, giocare meglio no, certamente Ibrahimovic aveva dei problemi da risolvere, si è cercato il modo migliore per risolverli. Però non sono d'accordo sul fatto che, insomma, il Tottenham è una squadra di non eccelso livello europeo, non è una squadra di medio livello in valore assoluto, non so sulla base di che parametro. A mio parere il Milan ha giocato molto male la partita di andata, in quella di ritorno ha provato a mettere insieme i coach, e cosa che non è riuscita per varie ragioni che conosciamo bene, e che d'altra parte è riuscita a pochissimi, no? nel corso della storia della Champions League, a due squadre. Una l'allenava Van Gaal un po' di tempo fa, si chiamava Ajax, e l'altra è storia recente, si chiama Inter, lo sapete bene. Io la ringrazio, Alessandro, la ringrazio e vi faccio sentire una cosa. Io credo che Joe Squillo abbia cantato entrambe le canzoni. Magari esatto, mi sbaglio. Esatto, bravo. E poi soprattutto ho cantato Siamo donne a San Siro, che non è male. però davanti alle donne, per amiche per l'Abruzzo, ma anche davanti a tanti uomini che sì, insomma, che di solito sono appunto nelle curve, anche se adesso le donne sono davvero molto molto di più negli spalti, quindi sì, mi fa molto molto piacere. A me telefonano poco, però è un mio cruccio nel mio programma, sempre pochissimo pubblico femminile, io sono disperato per questo. Carlo, tranquillo, non c'è problema, se vuoi facciamo sempre una corrispondenza. No, ma vedi Gio, la cosa strana è che tu l'altra canzone, non Siamo donne, quello lo sappiamo tutti, ma l'altra l'hai cantata sul serio, perché sai, è molto spesso che ami personaggi, artisti, eccetera, eccetera, che certo, sono pseudo tifosi. Tu sei tifosa sul serio, io lo so. Bene, bravo Carlo. No, è un'eredità che mi arriva dal nonno, capito? Il mio curin milanese, milanista, mi ha lasciato questa grande passione, per cui da già quando ero bambina, da quando avevo 9 anni. Ho seguito tutta la storia e anche tutte le varie appunto storie anche negative, quindi andavo sempre a San Siro e ci vado ancora. Adesso sono stata un po' in giro, per cui l'ultima partita che ho visto era Milan-Napoli e devo dire la verità, ho sofferto come sempre, perché c'è nel nostro DNA, quindi la sofferenza. Però insomma ho visto anche la capacità poi dopo un primo tempo veramente, diciamo, molto molto problematico anche di risolvere una partitona come quella del Milan a Milan-Napoli. Storicamente il tuo preferito chi è stato? In generale? Nel Milan, il mio preferito? Guarda, sicuramente il capitano Baresi. È stato sempre comunque proprio il simbolo di una storia. Sono sicuramente convinta che in campo abbia creato lo stile, quello del silenzio, del lavoro, della fatica, del sudore, e poi insomma abbiamo vinto tutto. Quindi ha veramente vinto quello che c'era da vincere, e è stato uno dei più grandi campioni. Sì, sì. Sì, e sì, in sì, un ruolo fra l'altro nel quale non si vince mai niente, purtroppo, no? Sì, quindi, hai ragione. Come difensore povero, no? Quindi è così, però diciamo che c'è stata quell'epoca con Sacchi, insomma, che è stata molto molto bella, ha dato veramente una grande visione di gioco, molto divertente anche. Diciamo che siamo anche, forse certe volte si è un po' quasi appagati, no? Perché veramente chi ha vissuto una grande storia come questa degli ultimi anni del Milan, caspita, insomma, è chiaro che c'è un momento anche di affaticamento dal punto di vista forse morale. Certo. Proprio, ecco, quello che secondo me ho proprio un po' visto in queste giornate, proprio la scarsa voglia di vincere, purtroppo, no? Cioè, quindi tu sì, dici? Va bene, siamo un po' siamo sopra, cioè stiamo vincendo, siamo già più due, va bene. E c'è questa sorta di mantenimento, di strategia e anche di planning, come si usa oggi, no? Di dire, sì, facciamo football planning di come allora Ibra si prende su 3 giornate e se ne sta un po' tranquillo perché in effetti aveva giocato fin troppo, il poverino è stato un po' spremuto e quindi aveva bisogno di uscirsene un po' dal campo. Ma è lui che ha bisogno di questo? È lui che ha bisogno di essere spremuto? È lui che ha bisogno di essere odiato? È lui che ha bisogno di essere al centro del palcoscenico? Non sarà mai un comprimario, è lui che richiede questo, capisci? Ma è anche vero, cioè, perché a volte io ho visto in campo come soffriva quando non gli passavano la palla. Certo. Cioè, lo capivi proprio che in effetti certe volte era un po' anche così, non è che era certe volte molto servito. E quindi si vedeva l'insofferenza di questo giocatore che certe volte ti mette anche un nervoso addosso perché sembra che sia ciondoli da una parte all'altra, ma poi a un certo punto è geniale, cioè la genialità di questo giocatore. Ma voi superstar siete così, No, io sono una passionale, lui invece è molto freddo, ha veramente una capacità di non emozionarsi, di avere una plomba che non mi appartiene. Io sono invece un'emotiva, emozionale, cioè io sono un gattuso, tanto per intenderci, capito? Che ci butto dentro anche gli strafalcioni, però riesco anche a segnare in quel modo, per dire. La partita di ieri è un po' così, cioè la logica era che proprio, cioè se non segnava Gattuso non segnava nessuno, e questo insomma la dice gran lunga, cioè come è possibile che possa sempre pensare di risolvere la situazione un Gattuso, oppure come ieri leggevo appunto la classifica che aveva dato un giornalista, Alessandro Bocci, che diceva appunto su Abate, no? Se il migliore è lui, che non è certo il talento dei campioni, la sconfitta è specialmente spiegabile. Sì, anche a Londra era stato il migliore, è un periodo che Abate è il migliore del Milan, questo può essere, bravo, indicativo. Gio, ti chiedo ancora questo, derby, come la mettiamo? La mettiamo in tribuna, guarda, tanto per cominciare, fortuna, o no? Dio santo, cioè sono questi 15 giorni di ritiro spirituale, digiuno, facciamo lo yoga, cioè ricarichiamo, andiamo a guardare il sole, facciamo il bagno di luna piena, cioè facciamo tutto quello che c'è da fare, sì, perché gli uomini sono veramente un po' spremuti, e quindi sono convinta che il derby sarà una grande ritorno del Milan, e la dimostrazione con questi più due punti dicono qualcosa e servono a qualcosa. Siamo sopra, siamo sicuramente più forti e ritroveremo questa grande voglia di vincere e questa determinazione, oltre che anche un'eleganza, perché sicuramente il nostro grande allenatore ha portato questo fair play, questa calma, questo possesso di palla, questa pazienza. Ecco, mettiamoci anche un pochino di carattere, grinta, e così anche un po' di sregolatezza e di genio e sregolatezza, e allora tombola. Ogni tanto, esatto, magari così anche Cassano ritorna a essere un pochino protagonista, insomma. Sì, un pochino più determinante, cosa che mi ha riuscito a essere molto a sprazzi. Gio, io ti ringrazio e ti mando un abbraccione. Grazie. Un abbraccione anche a te, forza Milan, forza ragazzi. Grazie a Gio Squillo, che ha parlato davvero da tifosa, cosa dite? Com'è sul serio? Perché mi è capitato di vederla in quella curva. Carlo da Piacenza, buongiorno. Buonasera. Arriva dopo Gio Squillo, non so se vuol cantare anche lei, se vuole faccia pure, No, grazie, sono abbastanza stonato. No, io volevo solamente dire una cosa. Io seguo sempre la vostra trasmissione, no? Sì. Però parlate soprattutto di Milan Inter, io sono juventino, no? Io, vabbè, ho telefonato anche prima. Allora, per me il problema principale è Del Neri, no? L'allenatore. Ecco, andrebbe cambiato, perché comunque in una partita come Lecce togliere Krasic, che è l'unico che secondo me poteva dare qualcosa a livello di spinta di cose, lui l'ha tolto per inserire comunque un altro attaccante, no? No, un difensore, scusa, e poi ha inserito molto più tardi Del Piero, togliendo un centrocampista. Non sono scelte che secondo me siano da un allenatore professionista, queste. Cerchi di attaccare e non di difenderti con un 6 sul 2-0. Ma non lo so, secondo me si può anche criticare Gigi Del Neri, ma per l'intera stagione. Criticarlo per cambi effettuati nel corso della partita mi sembra... Insomma, mi sembra la partita di oggi, mi sembra così abbastanza fuori luogo. È chiaro che quando un allenatore nel mirino, ogni volta che si alza dalla panchina ha sbagliato qualche cosa. Oggi, in tutta onestà, non mi sembra che, guardando la partita così, abbia sbagliato moltissimo. possiamo dire che Del Neri ha probabilmente sbagliato nella programmazione della preparazione, come qualche altra volta era successo nel corso della sua carriera, insomma, sono squadre che le sue che storicamente hanno molto sofferto nel periodo gennaio-febbraio, cosa che alla Juventus non ti puoi permettere. Questo sì, certamente avrà commesso gli errori, magari ha commesso gli errori anche nella gestione delle singole partite, ma non mi sembra questo il punto. Quanto io dico, e ripeto da un po' di tempo, perché di Juve ne parliamo, insomma, mi sembra l'argomento all'ordine del giorno ormai da un po' di tempo, forse dall'intera stagione, io condivido la decisione della dirigenza di comunque tenere Del Neri su quella panchina, perché altrimenti avrebbe voluto dire cambiarlo adesso per prendere chissà chi, avrebbe voluto dire buttare via dell'altro tempo, non dico soldi perché quelli pure, però sarebbe stato un errore dal punto di vista proprio della programmazione. Devono aspettare, vedere come vanno queste ultime otto di campionato, vedere che cosa riescono a dare i giocatori, soprattutto quelli in discussione, e poi tirare le somme. Angelo da Firenze, buonasera. Buonasera e buonasera, complimenti per la trasmissione e per la sobrietà. Io volevo con lei fare due riflessioni sull'Udinese. Ormai è una squadra che credo che abbia ormai finito l'effetto sorpresa. Io penso che col derby davanti, se i punti sono tanti dal Milan, ma col derby davanti e con l'ultima giornata ancora da giocarsi, io non la vedo molto lontana dal Milan. Certo è che i giocatori sono contati e che quindi sa un raffreddore a qualcuno, piuttosto che, anche se però mi sembrano abbastanza fair come non sono molto, come dire, a rischio squalifiche eccetera, quei 4-5 che comunque tirano la squadra. Però io ritengo che sarebbe una bella sorpresa e piacevole anche se l'Udinese continuasse, anche perché gli scontri diretti li ha giocati bene, l'Inter l'ha battuta, l'ha battuta assolutamente. Col Milan al 47esimo Ibra pareggiato, però 4-4 quella partita incredibile che ci ricordiamo tutti. Scherzare. Quindi no, ma l'Udinese, insomma, io credo che per Udinese e Napoli, tutti quelli un po' senza troppe bandiere come sottoscritto, insomma, sono le squadre per me della stagione, non posso che tifare per queste due. L'Udinese gioca un calcio più bello, più piacevole, il Napoli ha altre qualità, altre caratteristiche, comunque apprezzabili di organizzazione, di corsa, non ha mai avuto, e questo mi piace molto, mi sembra il segreto vero del Napoli, non ha mai avuto una vera flessione fisica nel corso dell'intera stagione, e sono curioso di vedere anche la partita di questa sera con il Cagliari, che di questi tempi non è un ostacolo impossibile, però sono curioso di vedere anche questa partita per avere un'ulteriore riprova del fatto che il Napoli di flessioni non ne ha fin qui avute. Ci fermiamo un attimo, poi c'è Angelo dalla provincia di Cuneo. 800240024, numero verde, continuate a chiamare. Non hai ancora portato titoli e fondi in Fineco Bank? Forse è ora. Trasferiscili subito e hai fino a 2.000 euro di bonus. Scadenza promozione 36-2011. Trasferimento minimo 10.000 euro in titoli e fondi di investimento. Dettagli e fogli informativi su fineco.it. Chiama l'800-101-101 o vai su fineco.it. Fineco, la banca con il 95% di clienti soddisfatti. Cosa dice il marziano? Dice che ha bruciori di stomaco. Dagli due compresse di digestivo Antonetto. Cosa? Dice che sono buone anche quelle al limone. Le ha viste in farmacia. Se talvolta soffrite di bruciori di stomaco causati dall'iperacidità, in farmacia c'è il digestivo Antonetto. Le compresse di digestivo Antonetto combattono il bruciore dando un rapido sollievo. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Il digestivo Antonetto agisce presto. Se hai un problema di erezione, non cercare scuse, trova una soluzione. Il 26 e 27 marzo, dalle 8 alle 20, chiama l'800-36-3677 per un incontro gratuito con uno specialista. Scopri di più su bastascuse.it, a cura di Sia Siam Sesiu. Incredibile. Microgocce di carburante iniettate direttamente nella camera di combustione. Così ogni goccia rende di più e inquina meno. Nuova Ford Focus con EcoBoost. Start more than a car. Sabato 26 e domenica 27. Il mio papà ha la partita IVA e lavora con il suo smartphone, che fa anche le previsioni meteorologiche. Così quando mi porta al parco indovina sempre se ci sarà il sole o le nuvole. Più servizio per la tua attività, più tempo per te. Passa a Vodafone Partita IVA. A marzo hai una promo speciale. Un Samsung Galaxy Mini con mail, internet e più di 700 minuti di chiamate a 35 euro al mese per 6 mesi. Perché l'importante sei tu. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone. Buongiorno, cosa le porto? Per iniziare un bignè come primo, un tiramisù e come secondo un bel babà alla crema. Sa, le bollette di luce e gas sono così salate che ho bisogno di qualcosa di dolce. Perché non fa come me? Con Fly Energia del gruppo Energetic Source risparmia da subito, a casa e in azienda. Numero verde 800 90 35 17 oppure flyenergia.it. Addio bollette salate. Ciao, strega Pallanza, sei passato ad Aretline? Pallanza, ma se tua moglie è strega, tuo suocero è stregone? Sì, e mo' via giù e te fa sparì. Oh, parlo con la strega. Risparmia delle battute. E tu risparmia sulla polizza auto. Passa ad Aretline. Su Aretline.it puoi risparmiare oltre 200 euro e ti mandano tutto a casa gratis. Vai, Aretline, oh, ma sei un mago. Grazie, strega. Saluta Pallanza. Direct Line, l'assicurazione a portata di mouse. Fai il tuo preventivo. Prima della sottoscrizione, leggere il fascicolo informativo su directline.it. A tempo di sport. Angelo, buonasera dunque. Buonasera. Lei vuole cantare? Prego? Vuole cantare lei? Sì, magari. Se vuole, dopo Joe Squillo può cantare lei. dica tutto. Bella battuta. Comunque sia. Senta, io parlo più per la Juventus e per un po' per l'Inter. Praticamente per la Juventus devo constatare che ha un gioco molto elementare. Non condivido il fatto che anche la difesa va sempre in attacco, tipo quel Chiellini che sembra stralunato, sì, e sembra stranchissimo, e sì, quando va in copertura in difesa delle volte si deve fermare perché non riesce a seguire l'avversario. Sì. Io consiglierei di attaccare un po' di meno con la difesa e mandare centrocampiste e le punte in attacco. Sono fatte per questo, no? E fra un'altra cosa che su Del Piero, che io non lo toglierei mai. Io ritengo che sia uno di quei giocatori che, anche se gioca con un piede legato, riesce a dare in meglio a far vincere la squadra, perché illumina il gioco. L'unico che sa tenere la palla e che, diciamo, sa una visione di gioco, una cosiddetta visione di gioco dei passati. Beh, Del Piero, che se Del Piero sia stato un fuoriclasse nessuno lo discute, che abbia avuto i suoi problemi fisici, che gli anni passino per tutti, per dire la più scontata delle banalità, eccetera eccetera, quindi che non sia possibile comunque tenere in campo sempre un giocatore in quelle condizioni fisiche, a quell'età, è abbastanza evidente. Quanto a Chiellini, mi sembra che nel complesso questa sia stata una stagione molto altalenante per Chiellini, anche una stagione in cui forse abbiamo rivisto certi giudizi di valore assoluto su questo giocatore. È stato spostato anche in fascia sinistra, restituendogli un ruolo che conosceva dai tempi del Livorno. È stato rimesso in mezzo e oggi sul gol del Brescia le sue responsabilità le ha. Insomma, mi sembra che si possa mettere in discussione il fatto che Chiellini sia un giocatore di assoluto livello mondiale. Certamente si deve mettere in discussione una coppia Bonucci-Chiellini che, secondo me, peggio assortita di così è impossibile, e questo credo che l'abbiano capito tutti, a cominciare da Del Nere e dai dirigenti juventini, che alla fine dell'anno dovranno fare opportune valutazioni. Questo è quanto, secondo me. Saluto Mario Poltronieri. Ciao Mario. Ciao, buonasera a tutti. E si ricomincia. Comincia il motorismo. Da oggi tutti in sella o al volante, perché ogni weekend ce n'è una. Oggi la stiamo aspettando. La stiamo aspettando in Qatar. Ma mi pare che dai primi battiti mai motomondiale sia stato così in pericolo, nel senso in pericolo di incertezza, perché Stoner sta andando a dei livelli che, insomma, probabilmente ci vorrà del tempo per colmare questo gap. Ma diciamo che eravamo tutti molto contenti dell'idea della squadra completamente italiana, pilota Valentino Rossi, moto Ducati, quindi si sperava, anzi si pensava che sarebbe stato subito nelle primissime posizioni. In realtà da quello che si è visto fino alle prove di poco fa del warm-up, purtroppo Valentino, oltre al problema della spalla, si trova in grandi difficoltà per mettere a punto questa moto. Infatti fin dall'inizio disse: io non riesco a capire come Stoner possa vincere guidando questa motocicletta. Adesso il problema grosso è quanto tempo ci vorrà per mettere a posto la moto, perché più che il problema elettronico, che si è già risolto, il problema motoristico, il problema è quello del telaio. Ora Valentino è molto bravo in questo, ma nello specifico entra in gioco anche il progettista del telaio, perché è un telaio speciale, diciamo così, quindi non è che il pilota da solo possa cambiare le regolazioni. Bisogna magari rifare un pezzo di telaio soprattutto. Quindi il problema è abbastanza delicato. Per quello che è la situazione attuale, Valentino valuta di poter essere fra il quarto e il quinto posto nella classifica della gara che partirà stasera, e che è una cosa abbastanza ragionevole, perché non dimentichiamoci che nelle qualifiche lui era arrivato nono con un distacco di un secondo e mezzo esatto. Sì. Mentre nel warm-up di poco fa è arrivato a 800, un secondo di 180, quindi è sempre un grossissimo distacco. Però non c'è solo questo di interessante nella gara, c'è anche vedere cosa fa Stoner rispetto a Pedrosa. Pedrosa si è messo ad andare velocissimo, Pedrosa parte meglio, quindi Stoner con una moto sicuramente più facile da guidare dalla Ducati riuscirà comunque a staccare Pedrosa. Questo è il motivo, diciamo, principale per quel che riguarda questa, la vittoria. Poi naturalmente bisognerà vedere il campione del mondo cosa farà. Ecco, in questo momento nello schieramento di partenza, prendiamo quello per buono, Stoner è davanti a Pedrosa, ma nel warm up Pedrosa è stato davanti a Stoner. Poi c'è Lorenzo, poi Simoncelli che sta andando molto bene nonostante il suo maggior peso, come dice lui, consuma troppa benzina perché essendo grande e grosso è meno aerodinamico. Sì. E Ben Spies, che è un'altra grande protagonista, che è il compagno di squadra di Lorenzo, Barberà, Dovizioso, che non era andato tanto bene nelle prove, adesso pare vada un po' meglio, e Valentino Rossi, che purtroppo, come dico, è schierato in nona posizione. E però sappiamo che nessuno è in grado di fare la differenza come lui su un mezzo a motore. Sì. Nessuno è in grado di fare la differenza come lui. Quindi quarto, quinto posto, dice The Doctor, noi ci crediamo, lo prendiamo per buono, già sarebbe un successone con la spalla, i problemi di moto, eccetera, eccetera. Però nessuno è in grado di fare la differenza come lui. Mario, io ti devo salutare e comunque darti appuntamento ai prossimi weekend, perché, come detto, motori accesi, ci sentiamo ad ogni giro. Grazie a Mario Poltronieri. Un abbraccio. Non so se Filippo Maria Ricci invece abbia la moto laggiù in Spagna. No, uno scooter. Scooter. Banale che sei. Lo so, sono di Roma, alla fine, dai, tutti qua ci nasciamo col motorino, dai. Sì, ma a Madrid, con tutti i soldi che guadagni, una moto te la potresti anche pigliare. Ma no, ho paura la moto, non la so guidare. Ti insegno io, dai. Oppure ti insegna Mourinho. Ecco, quello magari, non lo so, se un centauro. Non credo. Caro, a lui piacciono molto le macchine, soprattutto quelle estremamente costose. Mi ha fatto morire dal ridere, cioè la cosa più bella della settimana di Coppa non è stata tanto, poi qui di Bagusti, non è stata tanto nel gol di Pandev quanto una dichiarazione di Mourinho: se andiamo a Wembley ci mettiamo in panchina tutti insieme, noi e l'Inter, una grande festa di famiglia. Certo, è così, lui è, ormai ha preso questa strada e non la lascia. Ha due squadre, magari anche il Portogallo, non l'avevamo già detto, comunque due squadre di club, lui tifa per due, ha il cuore diviso e quindi unirà le panchine per, come se unisse il suo cuore. Guarda che è tremendo, tremendo. A livello di comunicazione non c'è nessuno come lui. Sì. Infatti ieri è stato bello vedere Rosell lamentarsi di questo scandaloso attacco sulla questione doping, e ha tutte le ragioni, perché sì, è veramente non c'è dubbio. Una schifezza. È stata una porcata, hai ragione. Esatto, quella che si chiama una zozzata. Però dice va bene le polemiche anche, diciamo, un po' forzate sul calendario, no? Dice va bene le polemiche anche forzate sugli arbitri, così. Quindi dice, tutto quello che fa Mourinho alla fine l'ha sdoganato più o meno. Dice, vabbè, lì lo sappiamo, dice, vabbè, non è che ci possiamo fare molto, però dice no, però poi su queste cose invece non possiamo transigere e via dicendo. Però è stato divertente vedere come il presidente del Barça dice vabbè, va, dice, prendiamo, lo conosciamo tutto. Ormai lo accettiamo così, siamo qui, apriamo la camicia, offriamo il petto e facciamo tutto quello che vuole. Esatto. Senti, però, la primavera che ci aspetta, questo scontro campale, questa battaglia epocale tra Real Madrid e Barcellona, è qualcosa che nessuno, credo, in Europa e nel mondo si vuole perdere. No, battaglia a tutto campo. Sì, non ci voglio pensare, ancora non ci sto pensando. Io tutti i giorni, guardo tutti i giorni. Spero che, non lo so, possa succedere qualcosa, qualcuno possa, perché veramente questi quattro classicos in 18-19 giorni, a seconda di come uno li voglia contare, sono veramente eccessivi, perché poi vuol dire giocarsi tre trofei, perché alla fine di quello si tratta, perché la Coppa del Re è una finale, va bene, la Liga è chiaro che il classico più o meno deciderà a livello, in più poi c'è una semifinale di Champions, veramente non so, non riesco a pensare dove si possa arrivare, cioè a che livelli di calore, di intensità si potranno raggiungere. Sì, un livello di stress non da poco. Lo guardo con un minimo di preoccupazione, perché ti capisco. Si è passata la misura, perché voglio dire adesso questa cosa del doping veramente si è passata la misura. Allora dico, adesso come facciamo a tornare indietro? Da dove si riparte? Vediamo come ci si arriva intanto, vediamo cosa succede in questi quarti di finale, e poi se dovrà essere, insomma, si rischia veramente, non dico la guerra civile perché non esageriamo, però comunque qua la prendono molto sul serio. E non c'è dubbio. Senti, buttameli un pronostico, dai, al volo. So che ti faccio un dispetto. Allora, per quanto riguarda la Liga, il classico della Liga come finisce? No, dipende, perché allora se davvero ci sarà... Non fare Democristiano. Giocheranno il classico della Liga sapendo già che si incontreranno in semifinale. Sì. Allora, se arrivano a 5 punti col classico della Liga, il classico ha meno importanza, perché comunque anche una vittoria del Real Madrid non riaprirebbe del tutto i giochi, li riaprirebbe in parte. E quindi secondo me è quello meno rilevante. E per me Mourinho ha tanta voglia di vincere la Coppa del Re. E poi punterà tutto sulla Champions League. E ieri sera ha fatto le prove, perché lui ieri sera ha giocato col trivote, cioè i tre centrocampisti centrali, Khedira, Lass e Xabi Alonso, che era la tattica che lui voleva adottare al Camp Nou. Poi per pudore, perché qui gli rompono le scatole così, non ha fatto giocare la Sierra e li hanno asfaltati. Secondo me lui sta cominciando già a fare le prove. E se la giocherà tutta nelle altre due competizioni. Per me è disposto a lasciare la Liga per vincere le altre due competizioni, e poi la Liga la vincerà il prossimo anno, perché io sono convinto che a meno di cose clamorose Mourinho resti un altro anno. Resterà. Dipenderà molto anche dalla battaglia campale, da tutto quello che lascerà poi sul campo dopo questo scontro. Cioè, tu devi sempre pensare che Guardiola per ora 5 classici, le ha vinte tutte e 5, 16-2 di parziale, sì. E se andiamo avanti così, magari per Mourinho comincia a diventare un po' fastidioso. Se poi perde la Liga, perde la Coppa del Re ed esce dalla Champions League, poi rifacciamo i conti e vediamo se resta. È chiaro. Grazie Filippo, un abbraccio. A voi. Hai tutta la mia comprensione. Tutta la mia comprensione. Grazie Filippo Maria Ricci, Traffico. Strade in diretta. Domenica di rientro dalla ponte del 17 marzo, traffico intenso su strade e autostrade verso le grandi città, difficile raggiungere Parma sulla 15 della Cisa, dove si incontrano 13 km di coda per lavori tra Berceto e Fornovo. Sulla Tossole ci sono rallentamenti per traffico nelle due direzioni, sul tratto appenninico e poi tra Valdarno e Firenze verso Bologna. In direzione Firenze poi ci sono code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico verso Bologna tra Cattolica e Rimini Sud, tra Forlì ed Imola, trafficata anche la diramazione per Ravenna. Rallentamenti sulla A4 tra San Giorgio di Nogaro e Porto Gruaro verso Venezia, proseguendo verso Brescia si incontrano code tra Peschiera e Desenzano, rallentamenti e code anche sul tratto milanese della A4. Traffico anche in direzione di Modena sulla 22 del Brennero, con rallentamenti fra Trento Centro e Affi. Trafficate le autostrade della Liguria, dove ci sono code in direzione di Genova sulla 12 a partire da Chiavari, mentre sulla 10 ci sono code tra Imperia Ovest e Imperia Est e a tratti tra Varazze e Genova. In direzione Torino si rallenta sulla A5 per lavori tra Quincinetto e Ivrea e sul raccordo A4 A5 sino ad Albiano in direzione della A4. Rientri anche a Roma, rallentamenti sulla diramazione Roma Nord sino a Settebagni, code sulla diramazione Roma Sud da Torrenova e lungo tutto il tratto urbano della 24. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. Promo 24. Il clima ideale aiuta a rilassarsi e a cancellare lo stress. E adesso a Marrakech ci sono 26 gradi. In questo momento dell'anno è tempo di prenotare una vacanza in Marocco. Soli, con la famiglia o con gli amici, c'è più scelta, si spende meno e ci si sente subito in vacanza, nella terra di un popolo accogliente, in pace, all'ombra delle palme e di una storia antichissima. Il Marocco vi aspetta su www.visitmorocco.com. Speciale 6 nazioni. E anche noi chiudiamo il capitolo di questo torneo vinto dall'Inghilterra, con l'Italia che chiude la classifica con l'ennesimo cucchiaio di legno. Ma poi cucchiaio di legno sì o no? Adesso risolviamo anche questo arcano, sì. Perché ieri quando l'ho detto poi molti hanno telefonato: ma come cucchiaio di legno? Abbiamo vinto con la Francia. Dario Ricci, ciao. Ciao Carlo, ciao, buonasera a tutti. Giacomo Bagnasco, tu che sei voce del rugby, è cucchiaio di legno oppure no? No, è caduto Giacomo Bagnasco e quindi ce lo dirà tra un attimo. Intanto è ultimo posto, sì, è ultimo posto. E l'Inghilterra vince. L'Inghilterra vince, però con l'amaro in bocca finale, no Carlo? Perché tutti, insomma, avendo la vista in campo nelle altre quattro partite, ci aspettavamo anche il grande slam come ciliegiona sulla torta del Sei Nazioni. Non è arrivato, e invece è arrivato questa netta sconfitta a Dublino contro l'Irlanda. Che sconfitta che preoccupa, anche perché ai mondiali, proprio contro l'Irlanda, se tutto andrà come prevedibile, ci andremo a giocare l'accesso ai quarti di finale, tanti agognati quarti di finale. Beh, allora è molto più probabile che non troveremo l'Irlanda del Flaminio, con cui abbiamo sfiorato un altro successo storico, ma troveremo l'Irlanda che ha asfaltato ieri gli inglesi, e allora saranno guai, servirà anche un'altra Italia. Sì, e comunque l'una e l'altra hanno battuto l'Italia, cioè esattamente, l'una l'ha già battuta, sì. L'altra la batterebbe, sì. O la batterà. Però è chiaro che un'Italia in grado di approfittare delle serate storte o delle giornate storte dell'avversario, noi la prendiamo volentieri, insomma, senza magnificarla, eccetera eccetera, però ben venga la freddezza e la capacità di approfittare delle giornate storte degli altri. L'Irlanda di ieri a Dublino, altro che giornata storta. Irlanda è una signora squadra con dei signori tre quarti, con gente che la palla la sa giocare. Prima di chiedere a Giacomo Bagnasco di rimetterci sta storia del cucchiaio di legno, vi faccio sentire cosa ha detto Mirko Bergamasco ieri dopo la partita al microfono di Flavia Carletti negli spogliatoi di Murrayfield. Sicuramente non siamo del tutto negativi, nel senso che ci sono molte cose positive sia in attacco che in difesa. C'è da lavorare, lo sapevamo, ma penso che queste partite ci hanno permesso di sapere a che punto siamo e cosa realmente questo gruppo. Penso sia un gruppo molto unito, che ha tantissima voglia di lavorare e che vuole arrivare alla Coppa del Mondo al 100%, quindi ogni partita è stata importante per capire cosa andava, cosa non andava, per migliorare partita dopo partita. Penso che forse quello che ci è mancato oggi è stato un po' di pazienza rispetto alla settimana scorsa, però fa parte del gioco e continuiamo a lavorarci. Bisogna rimanere positivi, penso possiamo uscire a testa alta da queste Sei Nazioni e continuare a credere nei nostri mezzi, in quello che facciamo. Va bene, rimaniamo positivi, d'accordo. Giacomo Bagnasco, ci sei? Eccoci qua, ci sono. Risolvimi questa storia del cucchiaio di legno, per favore. Allora, in sostanza la tradizione per quanto riguarda l'Italia, per quanto in Italia se ne è sempre saputo, è che il cucchiaio di legno andava alla squadra che arrivava ultima perdendo tutte le partite. Sì. Questa è diciamo la versione sicuramente accettata anche in Francia. In Inghilterra quantomeno ultimamente la versione è un'altra, cioè che il cucchiaio di legno va alla squadra che arriva ultima. Sì. Ecco. Partendo naturalmente dalla premessa che il cucchiaio di legno non esiste, non è un trofeo no, che è mai stato ufficializzato, quindi ognuno in sostanza lo può vedere un po' come vuole. È un trofeo invisibile, quindi... C'è anche un ragionamento che si deve fare però, e che qualcuno ha fatto secondo me giustamente. Se c'è un grande slam che va oltre il primo posto e si assegna solamente a chi vince tutte le partite, se c'è una triplice corona che è una specie di trofeo limitato alle quattro home unions, cioè Irlanda, Galles, Scozia e Inghilterra, sì. E viene attribuita non a chi fa meglio rispetto alle altre tre, ma a chi vince eventualmente tutte le tre partite con le tre contendenti, sembrerebbe logico dare il cucchiaio di legno a chi le ha perse tutte. Detto sì. Questo, siamo un po' sul filo della lana caprina e dobbiamo dire che nella gestione di Nick Mallet, questo va detto, in sostanza l'Italia dal 2008 al 2011 è sempre finita al sesto posto, vincendo tre partite in tre edizioni e quindi evitando il cucchiaio di legno secondo la nostra versione, comunque arrivando sempre ultima, e questo è un bilancio sicuramente non positivo di Nick Mallet per quanto riguarda il Sei Nazioni. 20 partite giocate sotto la sua gestione, 3 vinte e 17 perse. Devo dire, ieri è un peccato in più questa sconfitta dell'Italia, perché potevamo fare noi sì un piccolissimo grande slam che non c'era mai riuscito, perché nelle altre partite del Sei Nazioni di categoria l'Italia ha vinto, l'Under 20 ha battuto la Scozia in Scozia 9-7 e l'Italia femminile ha battuto la Scozia sempre in trasferta addirittura 26-0. Certo, la partita più importante delle tre è quella che è venuta meno per un problema legato. Io farei un ragionamento anche di questo tipo, Carlo. Secondo me noi abbiamo detto da tanto tempo che il problema dell'Italia sostanzialmente è il gioco, ma allarghiamoci un po', è il gioco nel senso dell'efficacia della tattica italiana, perché ci sono fior di squadre come il Sudafrica che non hanno mai avuto un gioco eccessivamente spettacolare, però ottengono i risultati e li ottengono giocando sui loro punti di forza e sui punti di debolezza degli avversari, e questo va benissimo. Sì. Il fatto è che l'Italia a far questo non riesce. La finale, certo, degli ultimi mondiali tra Sudafrica e Inghilterra, ti ricorderai, ne avevamo parlato anche più di una volta, non Carlo. È, non è stato esteticamente... C'erano stati dei momenti in cui sembrava che i sudafricani, una volta acquisito il vantaggio, dessero il pallone, in un certo senso ricalciandolo indietro agli inglesi, dicendo venite avanti, intanto non passerete. Si regalavano la palla gli uni con gli altri, non sapendo bene come fare. Sembravano due... Non è il massimo dello spettacolo, la difesa è impenetrabile, i punti arrivano perché c'è un calciatore forte, perché c'è una solidità di squadra, perché c'è una mischia che fa dei figuroni, non ci sarebbe niente da dire. Sembrano due Italie al quadrato. Il problema è lì, e poi prima o poi bisogna anche imparare a capire cosa fare quando la palla in mano ce l'hai. Grazie Giacomo, alla prossima. Grazie a voi. Grazie. Avessimo comunque i tre quarti che ha l'Inghilterra o anche Sudafrica. Dobbiamo aspettare qualche altra generazione. Flo da Bana, insomma, c'è qualche giocatorino che avesse la maglia azzurra addosso, magari qualche problema in meno. Ce l'avremmo. Parliamo dopo di basket, ci vediamo dopo per il basket. Dalle 8:30 alle 9 aspetto Dario Ricci per il basket, poi ci sarà il Napoli stasera e anche le moto. Attenzione, mondiale perché scatta alle 20, tra un canestro e l'altro vi daremo anche il finale della gara, della prima gara stagionale. Per ora grazie a Valeria Bernardi in regia e a Luca Rinaldi in redazione. A dopo.